בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Amici di Blu Radio Veneto, benvenuti in frequenza, benvenuti all'interno della programmazione serale che si chiama Blu Time Live. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, 28 maggio del 2013, sono le 21:07 minuti primi, un appuntamento particolare in questa serata, dove si rivive un po' quelle che erano le atmosfere di quello che era considerato medioevo, quindi quell'età di mezzo in cui cominciava la rinascita, diciamo, di quello che era il mondo. E quindi nel pieno medioevo c'erano anche delle bellissime musiche che servivano per far ballare la gente in piazza, a farle ballare per le strade e qualche volta anche farle sedere attorno a un focolare a farle sentire la musica. Di radio non se ne parlava proprio, nel Medioevo ancora siamo un po' lontani, e quindi c'erano questi musicisti pagati forse anche da qualche signoria, ma più probabilmente anche dal popolo. Nel 2013, quindi diciamo più di 800 anni dopo, i Vagus Animis ci fanno rivivere queste atmosfere e quindi diamo loro il benvenuto. Buonasera ragazzi, benvenuti a Blu Radio Veneto. Buonasera. Allora, speriamo di aver dato un cappello sufficiente a spiegare quello che succede in questa serata. Fino alle 22:30 avremo modo di sentire la vostra musica e di approfondire anche i contenuti di questa musica per noi sconosciuta, se non per averla sentita come molti altri ascoltatori nelle piazze, nelle strade, però solo sentita. Quindi voi invece ce la fate ascoltare in questa serata, quindi ci fate ragionare sopra anche quella che è la musica. Allora, Vagus Animis, un gruppo che arriva per tre quarti, anzi due terzi da Brescia e per un terzo dall'Umbria, quindi in questo caso da Assisi, mi è stato confermato da Assisi, e quindi diamo il benvenuto ai tre membri del Vagus Animis, quindi salutando Gianni. Ciao. Buonasera Gianni. Buonasera. Poi ancora Laura. Buonasera. E Melissa. Buonasera. Che sono rispettivamente Davul, quindi quel grande tamburone che abbiamo visto, poi ascolteremo anche i particolari di questo tamburo, del perché di questo tamburo, poi ancora Laura con tutti i tamburelli, castagnette, sonaglietti vari, ho visto che ti legavi qualcosa anche alla caviglia, quindi vabbè, un po' di tutto, tamburi a cornice che sono quelle grandi... Quei tamburelli un po' più cresciutelli, diciamo così, e poi ancora Melissa, cornamuse e ghironda in questa serata solo con la cornamusa, perché la ghironda, diceva, è all'ospedale. In manutenzione. Allora, Vagus Animis, innanzitutto la domanda che vi faccio è questa. Il perché avete scelto questo nome latino? Già sembra di capire perché l'avete scelto, perché naturalmente la lingua latina nel Medioevo, insomma, era molto praticata, ora è quella che si dice una lingua morta. Però Vagus Animis significa? Di fatto significa privi di senno. L'abbiamo preso da un carme di Catullo, per cui in realtà deriva dal latino classico. E letteralmente significa privi di animo, che all'età, in epoca romana, significava privi di senno, per cui un po' denota il nostro carattere giullaresco e il più divertente possibile, insomma. Quindi Vagus Animis, ognuno si era fatto un po' un viaggio nell'anima, un vagare nei mondi diciamo introspettivi, in realtà voi l'avete fatta proprio della serie fuori di seno. Esatto. Va bene così. Tipo fuori di zucca, esatto. Ecco, in questo caso, tanto nome, per nome. Renderla ancora più popolare, diciamo la cosa, esatto, perché il opposto. Senno fa parte della cultura intellettuale. Esatto, ecco, opposto di una buona introspezione. Sì, certo. Allora, invitiamo subito a prendere mano e bocca agli strumenti per quanto riguarda... Anzi, scusate, prima c'è un pezzo che vogliamo far ascoltare dal disco. Un disco che ci proponete in questa serata, abbinato anche ad alcuni altri pezzi che faranno parte di un vostro nuovo lavoro, di cui parleremo dopo. Allora iniziamo subito la nostra kermesse musicale medievale, presentando questo pezzo che si intitola Abatissa, e poi torniamo a commentarlo insieme qui dai microfoni di Blu Radio Veneto. Blu Time, Blu Time. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Non vi siete sbagliati, carissimi ascoltatori, siete all'interno di Blu Time Live, una dimensione un po' particolare, quella di questa serata, rivivendo un po' le musiche del Medioevo, come si ricordava in principio, con i Vagus Animis, presenti qui in studio con noi, per raccontarci un po' della loro esperienza musicale, di un disco che sta andando, di un altro prodotto in costruzione, del quale ci daranno alcuni assaggi in questa serata. Abbiamo preso un pezzo da Vagus in Fabula, quindi un Vagus, quindi questo fuori di senno, questa persona vaga di cui si parla, quindi come il lupus in fabula. In questo tempo salutiamo nuovamente gli amici Vagus Animis che sono venuti qui, li ringraziamo, ad offrirci quella che è la loro musica. Allora, Abatissa, il primo pezzo che ci siamo ascoltati, hanno tutti dei titoli molto particolari, molto, sì, neolatini, latini, forse qualcosa preso dal portoghese in questo caso. Melissa. Dunque, c'è un brano francese ed un brano tradizionale piemontese che effettivamente potrebbe ricordare un po' il suono, perché sono comunque dialetti e patois, insomma. Sì. Quindi le lingue europee. Patois sono quelli tra il Piemonte e la Francia, esatto. Quindi nella parte occitana, chiamiamola così, sì, quindi sì. Alla fine questo patois, però tu parli di lingua, in realtà non c'è stato un canto, ma quindi forse tu interpreti la lingua come diciamo il modo di suonare, certo. In questo caso. Allora, si parla proprio di linguaggio musicale, di determinate aree, in questo caso in particolare per Vagus in Fabula ci siamo concentrati quasi esclusivamente, ad eccezione di un brano, sull'area piemontese franco-provenzale, mentre per esempio per il prossimo lavoro che abbiamo in cantiere ci concentreremo sull'area della penisola iberica, principalmente. È molto viva il discorso dell'area piemontese, molti gruppi portano avanti questo discorso, sì, vero, c'è Melissa? Una grande rinascita della musica tradizionale negli ultimi anni, anche grazie a gruppi come Ludalfin. Esattamente, quasi. Soprattutto citavo proprio quelli, volevo proprio parlare di quelli, che è il disco, che è il gruppo più importante, più famoso, che ha portato avanti questo discorso. Grazie a loro e a tanti altri gruppi c'è una grande rinascita un po' in tutti i sensi della musica tradizionale, anche declinata in modi molto particolari. C'è ad esempio un gruppo che arrangia brani tradizionali in versione rap. Ah, bene, questo non lo sapevo. E si chiamano i Bojanen. Ah, bene. Sono dei nostri amici e sono notevoli. Non sembra l'accostamento, ma in realtà sono molto bravi. Il rap col Medioevo ci sta bene. Musica tradizionale piemontese occitana mescolata alla musica rap. Tu prima, mentre il pezzo andava, hai fatto una bella distinzione della musica medievale in due tipi praticamente. Sì, ci sono poi molte altre sottocategorie, diciamo che i due tipi principali. I principali sono l'alta cappella, che è quello che suoniamo noi, ovvero musica ad alto volume con cornamuse, bombarde, tamburi di grosso diametro. Quindi la musica in piazza praticamente. Esatto, concepita per essere suonata per le strade. E la bassa cappella, che sostanzialmente è la musica che veniva suonata nelle corti, è un genere un pochettino più da camera, con strumenti a basso volume, che comprende anche praticamente sempre il cantato, cosa che invece nell'alta cappella è molto più raro trovarsi. Quindi non c'è la differenza tra acustico e elettronico, qui l'elettronica non c'entra per niente. No, assolutamente. Si parla di alta cappella e bassa cappella, benissimo. E allora, Vagus Animis, voi avete i vostri bellissimi strumenti musicali, che io direi è giunto il momento di farli suonare, perché lo sanno fare molto bene, merita un particolare risalto, poi risalteremo anche gli altri. Uno strumento che andremo a conoscere più tardi, per adesso lo sentiremo nell'esibizione live. Questa è una cornamusa, è davvero fantastica, per chi ne ha viste poche si può dire solo cose positive di questo strumento, e quindi ci andiamo ad ascoltare un pezzo nella versione live che è un po' un, diciamo, un anticipo di quello che è il vostro lavoro. Allora adesso lo ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme. Il pezzo si intitola Como Podem, o Como Podem a seconda di come si vede il, l'accento, e Vagus Animis qui a Blu Radio Veneto. Ecco, siamo ritornati dopo l'ascolto di questo pezzo, questo pezzo che si intitola Como Podem ed è un pezzo che ci hanno voluto regalare sin dal principio i Vagus Animis in questo lavoro che stanno ancora portando a buon fine e di cui ascolteremo in questa serata altri quattro pezzi, naturalmente in versione live. Quindi Vagus Animis, Como Podem, Como Podem, non so, a seconda di come si gestisce l'accento e quindi a seconda della lingua. Questo è confermato che è un portoghese? Questo è spagnolo. Questo è spagnolo del XIII secolo. E fa parte di che? Perché tu, mi pare, io ho letto che una parte del vostro repertorio viene dalle canzoni del Cantigas di Santa Maria. Esattamente. Santa Maria, scritte nel XIII secolo, sì. All'epoca di Re Castiglia Alfonso. Esatto. Alfonso X. Il sì. Saggio, è così? Sì, esattamente. Diciamo che quest'anno abbiamo deciso di concentrarci particolarmente su questo codice, di cui in realtà esistono quattro copie al mondo, di cui una è anche a Firenze. Consta in più di 400 brani, noi ne abbiamo ovviamente fatta una selezione. Beh, chiaro, chiaro. Una chiaro. Decina di brani, ovviamente riarrangiati e interpretati, diciamo, liberamente, con licenza poetica da noi. E... dunque, sì, sono state scritte nel XIII secolo, circa alla fine del 1200, da una serie di autori anonimi, probabilmente anche di diverse provenienze culturali ed etniche, ovviamente non sappiamo di, con precisione, e alcuni di questi brani sono attribuiti addirittura al, a proprio al re Alfonso il Saggio, direttamente a lui. Tuttavia comunque è sempre molto difficile. Ma sono brani d'origine religiosa allora? Sì, sì, sono sostanzialmente brani relativi al pellegrinaggio, sì. Comunque fortemente legati alla questione di Santiago de Compostela, certo. E in questo caso, essendo, se lo dice il nome stesso che è stato dato al codice, è a, alla Vergine Maria, certo, certo. Di Santa Maria, e per cui la grande maggioranza parlano appunto di, della Vergine in vari modi, raccontando episodi biblici o episodi legati a miracoli compiuti dalla Vergine, eccetera. Ma quindi questa musica non era solamente da interpretare come musica, c'erano dei racconti alla base, sì, della stessa? Alcuni brani prevedono che venga recitata una sorta di presentazione che diciamo esplicativa di quello di cui poi la cantiga parla, e poi sono tutti brani con un testo, sono concepiti per essere cantati. Noi ne abbiamo dato un'interpretazione alta cappella, per cui priva di cantato. Non pensiamo che questo sia così potentemente sbagliato, perché la cornamusa era uno strumento diffusissimo nel Medioevo, soprattutto tra pellegrini o comunque personaggi che suonavano a questua per mantenersi. Certo, certo. E quindi facevo i buskers di una volta, esatto, praticamente, sì. Di un tempo. Per cui noi pensiamo che non vada escluso che questi brani fossero suonati anche in questo modo, in un modo simile, insomma. E che difficoltà avete avuto a prendere un pezzo del 1200, fine 1200, di metterlo in pista e farlo sentire nel 2013? Che difficoltà avete avuto nell'arrangiamento, nell'idea dell'arrangiamento? Prima di tutto è la scrittura musicale, perché chiaramente non scrivevano come scriviamo noi, per cui molte delle informazioni che una partitura moderna ci trasmette noi non le abbiamo nelle partiture medievali. Ad esempio non ci sono indicazioni di tempo, non ci sono Laura conferma, Laura sta confermata. Sì. Di durata delle note, e poi soprattutto molto spesso è tanto è lasciato all'interpretazione. Era più uno scrivere dei promemoria rispetto alla nostra scrittura musicale odierna. Per cui il primo scoglio da superare è la cosiddetta paleografia musicale, e riuscire un pochettino a districarsi nel caos dei tetragrammi, della quadrata e dei neumi a seconda del codice. Diciamo che è un geroglifico da risistemare con l'uso di una propria ritmica, perché poi in questi passaggi, diciamo, tipo gli usi e costumi, no? Si passano di parola in parola, quindi di fabula in fabula, come dite voi, dal disco, e quindi difficile l'interpretazione. Magari un altro gruppo arriverebbe a tradurlo in una maniera, esatto, assolutamente, una conclusione completamente diversa. Infatti anche le ritmiche noi cerchiamo un pochettino di, diciamo, di metterci quello che pensiamo sia più calzante, ma come dicevi giustamente potrebbe, che qualunque altro gruppo potrebbe darne un'interpretazione diametralmente opposta, e non sarebbe comunque sbagliata, non esiste. Certo, ma comunque sempre con gli stessi strumenti, oppure si allarga la fascia della scelta della strumentazione? Dunque, teoricamente la cosa più normale da fare, diciamo, sarebbe cercare di capire quali strumenti venivano suonati nel periodo in cui è stato prodotto un determinato codice musicale, e cercare di utilizzare quelli. Tuttavia probabilmente questi brani sono stati poi suonati per molti decenni, forse secoli, dopo la loro scrittura, per cui in realtà anche qui la scelta della strumentazione rimane molto libera. È stato molto dilatato il discorso, esatto. Chiaramente. Benissimo, allora ascoltiamo un altro pezzo per continuare a parlare poi a piccole dosi di questa che è una nuova, diciamo, concezione musicale o riconcezione, nel senso che ci sono i giovani che ne stanno prendendo a cuore queste argomentazioni medievali, e quindi adesso sentiamo il tempo di questo saltarello dall'album del Vagus Animis, che si intitola per l'appunto Vagus in Fabula. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Quasi quasi parlo con la direzione per farsi fare anche uno stacchetto medievale, quindi con certo. Musa, salterelli, tamburi, battenti, ghironda, insomma, è vero Maurizio? Ma perfettamente, hai perfettamente ragione, si potrebbe farlo immediatamente. Immediatamente. Allora mettiamo subito sotto i nostri amici Vagus Animis, che ringraziamo ancora di essere con noi. Abbiamo ascoltato un altro pezzo da CD che si intitola Vagus in Fabula, questo saltarello che è un ballo questa volta assolutamente italiano, viene già, come dire, indicata, gli ascoltatori non lo vedono, però tra i tre si è creato una serie di incrocio di dita per indicare che la più, diciamo, addetta ai lavori in questo caso è Laura, che viene naturalmente da Assisi, di conseguenza è umbra, e di conseguenza abbiamo già capito in principio che saltarello viene dalle tue parti. Diciamo che il saltarello è una musica tradizionale di tutta l'Italia. Al sud poi viene chiamata anche in altre maniere, come pizzica o taranta, ma il motivo rimane quello: è una musica tradizionale che fortunatamente è rimasta fino a noi e di cui troviamo le radici nel Medioevo, e noi in Umbria lo balliamo tuttora. E io mi occupo anche di danza antica oltre che di musica, per fare una ricostruzione delle danze che sono ancora più volatili rispetto alla musica. Noi partiamo assolutamente da quello che è odiernamente la danza popolare. Da quello possiamo a mano tornare indietro e cercare di avvicinarci il più possibile a quello che poteva essere una volta. Ovviamente i brani cambiano leggermente, ma il ritmo di fondo dei saltarelli, che sono tantissimi, è sempre lo stesso, sia per quelli medievali che per quelli moderni. E, non lo so, per me è particolarmente emozionante il saltarello, perché è il mio sangue, quindi... Sentiamo solo un attimo il ritmo del saltarello solo con il battente, questo tamburello. Quindi c'è tutta una lavorazione di dita, di polso, e in questa serata sei anche un po' fasciata, diciamo, al polso. Una caduta ti ha portato ad essere un po' trattenuta in questa serata, però abbiamo capito che, insomma, quel tamburello fa parte di te in questo caso, perché appunto è confermato, come tu dicevi. Lo sento mio questo saltarello. Maurizio, la musica porta il movimento o il movimento porta la musica? È un po' come dire se è nato prima l'uovo o la gallina. Esattamente. Dipende. Secondo me... No, parlo del saltarello. Del saltarello. Sinceramente non saprei. Non saprei, perché comunque movimento e musica sono inscindibili. Cioè, volevo dire se un ritmo, cioè un momento musicale, porta a un passo diverso nel saltarello. Questo in realtà dire. Il saltarello ha un passo base, parlo di quello popolare. Sì, quello di popolare. Ha un passo base e poi ha delle figurazioni che non sono fisse, una danza improvvisata, ho capito. Una danza di divertimento, quindi non è un balletto. Non c'è uno schema. È uno schema libero praticamente. Ci sono alcuni saltarelli codificati, ma non c'è un vero schema, cioè si trovavano nelle aie e ballavano come... Nei tempi moderni si chiama improvvisazione. Sì. Ecco, la stessa cosa, ho capito. Quindi uno si trovava, cominciava a battere il secchio e poi un altro ci andava dietro con qualche strumento preso così, sempre dalla natura, si può dire. Diciamo che per quanto riguarda l'epoca moderna, contemporanea, gli strumenti tipici della musica popolare fino all'Ottocento, fino al Novecento, erano principalmente cornamusa, poi varie cornamuse diverse per tutta l'Italia, tamburello sempre e in alcuni casi violino. Poi a un certo punto sono arrivati qua da noi gli organetti e quindi abbiamo cominciato a suonare l'organetto anche noi, che ha soppiantato la cornamusa al violino, perché certo, con uno strumento solo ci fai quello che facevano, sì, tutti esattamente, gli altri. Però il tamburello rimane. Quello rimane, sì, fisso. Sì. Benissimo, poi avremo modo anche di approfondire appunto l'argomento degli strumenti implicati. E allora, visto che il tempo sembra sfuggirci, quindi tempus fugit, tanto per dirla alla Latina, Latinorum, questa volta ancora spazio alla vostra musica, quindi strumenti musicali. Vediamo adesso la preparazione, sentite, ecco qua, si sta alzando Melissa con la cornamusa, poi ancora Laura con i suoi tamburelli e con un grande tamburo che si chiama Davul. Abbiamo il nostro Gianni, grandissimo questo tamburo, ricordiamo è molto particolare, con questi legacci davvero davvero belli da vedere, poi anche magico da sentire. E naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione la stiamo registrando e in più all'interno del nostro sito internet, oltre che la registrazione della trasmissione, si potranno vedere anche quelle che sono alcune foto che abbiamo scattato proprio per documentare la serata radiofonica di questa sera. Allora, spazio ai Vagus Animis, questa volta con Dacedeus. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato uno dei pezzi nuovi che farà parte del prossimo lavoro dei Vagus Animis, si intitola Dacche Deus ed è anche lui tratto da quei canti tradizionali, i famosi Cantigas de Santa Maria, questo è il numero 77, ecco qua, e quindi un testo tradizionale galiziano-portoghese, per dire, per definire un po' la zona, quella di Vigo, Pontevedra, Lugo, quelle Orense, quelle zone lì che vanno verso dalla Spagna verso il Portogallo, e anche per questo all'interno di internet per i più curiosi si possono anche vedere quelle che sono le parole originali. Naturalmente bisogna conoscere un po' di spagnolo e soprattutto un po' dello spagnolo antico, diciamo, perché non è proprio dello spagnolo di tutti i giorni, o le o la o cos'altro. Forno chi è che non conosce un po' di spagnolo antico? Sì, certo. Benissimo, allora forse noi veneti siamo anche avvantaggiati, no, in questo. Un pochettino. Musicalmente è un pezzo molto interessante, secondo me, sì. Questo qua. Adesso parliamo con Melissa e anche con Laura e anche con Gianno, chiaramente. Con Gianni? Sì. Gianno, scusa. Beh, praticamente cambia spesso e volentieri il tema, cioè c'è un tema l'arrangiamento che cambia in continuazione, lui ti dà il andate avanti, poi tu cambi con la cornamusa, poi lui riprende il tema, come mai? Ma questa è stata una scelta nostra, nel senso che ci sembrava un arrangiamento un po' particolare, un pochino più così legato alla musica tradizionale forse che rispetto alla musica medievale, sì, propriamente detta un po' più movimentato, esatto. Rispetto alla musica medievale è molto meno movimentata, esatto. Si calcoli comunque che noi suoniamo principalmente in un ambiente di festa, in certo, ambienti, quindi bisogna muoversi strada, e quindi cerchiamo di miscelare la musica medievale, che rimane solo a livello vestigiale, e con la musica tradizionale un po' di tutta Italia, per cercare di dare un pochettino di consistenza pratica, insomma, a quello che facciamo, e per cercare anche di rendere il tutto approcciabile anche al pubblico, perché comunque si sta parlando di musica che ha vecchia di secoli, certo. Per cui non sempre diciamo può incontrare i gusti dell'uomo moderno, anzi molto spesso non lo fa, per cui anzi diciamo che in questo caso si parla di musica modale, che non è propriamente quello di cui noi ci cibiamo musicalmente oggi, e quindi diciamo cerchiamo di darne un'interpretazione, considerando anche che noi siamo nati tutti nel XX secolo, quindi è un po' figlia nostra, figlia del XX secolo questa musica. Certo, poi cerchiamo subito di capire qual è stata la passione che vi ha mosso a muovere appunto i primi passi all'interno di questa musica, perché anche voi come tutti sarete nati al ritmo di Beatles, Rolling Stones, Laura conferma che è nata al tempo di musica medievale. Direttamente. Quindi, sì, è una reincarnazione. Sì, Laura è figlia d'arte. Sì, gli assisani sono gente strana. Sì. No, da noi lo studio della musica medievale da noi esiste già da tantissimi anni, e infatti il gruppo dei maggiori esponenti, per quanto ne penso io almeno, i due gruppi maggiori, insomma, vengono da Assisi. E quindi ecco, abbiamo anche una scuola di musica medievale da noi, quindi abbiamo proprio l'abitudine all'ascolto della musica e al piacere di questa, come parimenti, come se fosse i Beatles. I Beatles medievali chi sono per secondo te? Tu hai parlato di due gruppi di Assisi, no? Oddio, non lo so, perché... No. Ma puoi citare questi due gruppi di Assisi? Sì, i Micrologus, che sono un gruppo di importanza mondiale per la musica antica. È un gruppo che non è nato da molto, ma che riunisce moltissimi esperti che hanno lavorato in tantissimi altri gruppi, tra cui anche i Micrologus. L'anonima Frottolisti. Ma questo l'ho già sentita. Sì? Sì, l'ho sentito da qualche parte, l'ho letto da qualche parte. Sono stati sabato scorso a Radio 3. Ecco, vedi, ah, per, vedi, quello, vedi, per quello, ecco, quello è il motivo, per quello li ho sentiti. Vedi che anche questa musica pian pianino si fa strada, se sono arrivati a Radio 3 ci sarà un perché, come diceva Riccardo Cocciante, qualche sua canzone. Ecco. Benissimo, 21:49 qui a Blu Radio Veneto, ci concediamo lo spazio per un altro brano dei Vagus Animis. In questo caso, guardiamo bene la scaletta, c'è da ascoltare Bergera, eccola qua. Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato un altro pezzo dei Vagus Animis, da Vagus in Fabula, questo CD che ci fa ripercorrere appunto le strade medievali per ascoltare questa musica formata da cornamusa e tamburelli e tambur battente. E ancora i nostri ospiti Giano, Laura e Melissa, componenti appunto dei Vagus Animis. Allora, tutte queste pronunce non si sa mai da che parte mettere l'accento, perché una volta c'è l'occitano, una volta c'è lo spagnolo antico, un'altra volta il portoghese, questa volta il piemontese. Mi sono cimentato su quello che poteva essere Bergera, ma forse poteva essere interpretato con un altro accento. Melissa. Dunque, da quello che so io, che non sono piemontese, ma mi sono appropriata di un brano così indebitamente, sì, si pronuncia Bergera, che ecco, vuol dire pastorella. Pastorella, sì, da... in molte altre lingue è conosciuto Berger proprio come come il pastore, giusto? Anche in tedesco mi pare, comunque va bene, non importa, continuiamo. E dunque, Bergera è un brano tradizionale, non ha nulla a che vedere con la musica medievale. Ho deciso che l'avrei suonato comunque prendendolo in prestito da un repertorio che solitamente non trattiamo, per una questione di gusto e perché comunque credo che ci sia tutto sommato un legame tra la musica tradizionale e la musica antica. Sì, tra l'altra cosa mi sembrava che questa fosse anche in mezzo a qualche canto di alpini. Sì, no? Può essere, sicuramente, sì, sì, perché mi... fa proprio parte di quel repertorio, sì, lì. E appunto sono brani sostanzialmente senza età, che sono anonimi, non si sa chi li abbia composti né quando. E sì, quindi... secondo me sono, rappresentano dei passi all'indietro che vanno compiuti per tentare di ricostruire, come diceva prima Laura per la danza, quello che era la musica medievale. Sempre tenendo ben presente che non possiamo sapere come suonassero, anzi si dice, certo, addirittura che la nota tonica della scala venisse data dalla campana del paese durante il Medioevo. Mm. Per cui sostanzialmente in ogni paese si suonava in una tonalità diversa, intonati in maniera, certo, diversa. Perché le campane, ognuno aveva i soldi per acquistare quella più atta alla propria, diciamo, al proprio paese, per cui non tutte le campane uscivano bene col battocchio giusto. Esatto. O con, diciamo, questa fonduta di metallo in maniera corretta, per cui alcuni erano proprio stonati. Esatto, no? Per cui noi diciamo ci basiamo su una serie di convenzioni che sono state stabilite per la musica tradizionale, che è comunque quanto di più pratico e vicino noi abbiamo per partire con le nostre ricostruzioni. Ecco, e voi date anche un contributo pratico proprio per questo, per far rivalutare anche agli storici, a chi di cultura medievale ne conosce molto, cercate di dargli un po' una traduzione, un portarli verso quella dimensione non solamente di studio, ma anche quella dimensione di allegria che si creava con, sì, questa musica. Sì, noi principalmente lavoriamo, suoniamo presso le rievocazioni storiche, un po' di tutte le fogge e di svariati periodi, di svariati secoli del Medioevo. E quindi comunque quello che sono poi in realtà le rievocazioni storiche è un tentativo di riprodurre praticamente quello che noi sappiamo solamente in teoria. Quindi noi facciamo parte di tutto quel corredo di arti e mestieri che si tenta di riproporre in questo ambiente. Quindi noi diciamo cerchiamo al meglio possibile di rendere l'idea di quello che era il tipico ensemble, sì, sì, dell'epoca medievale. Anche perché questo si può prendere assolutamente con dei dipinti, dei quadri, dei disegni, non certo con delle fotografie e dei riporti pratici di qualcuno che ha scritto si fa così, così e colà. No, sicuramente no. Diciamo che ci sono anche fonti letterarie abbastanza... diciamo importanti e significative per quello che riguarda l'opinione che si aveva dei musicisti. Addirittura esistono anche dei resoconti circa quanto venissero pagati in alcuni casi. Ma pali dei trovatori praticamente. Sì, diciamo esistevano poi svariati tipi. Il trovatore sforava anche un pochettino in quello che è l'arte del teatro, la satira, eccetera. Diciamo che tutte queste figure poi un pochettino si mescolavano tra loro. Il suonatore di cornamusa, certo, il trovatore, eccetera, erano tutti... facevano parte della piazza, dell'ambiente. Esatto. Uno poteva essere 10.000 cose diverse, certo, diciamo, certo, per cui... Sì, si faceva di tutto per mangiare. È esatto, vero, proprio quello. In quell'epoca dove di soldi ne giravano pochi, anche adesso, un po' simile al Medioevo questa situazione, però diciamo che uno si arrabattava come poteva, quindi anche suonando cornamusa, battenti, ghironda, esatto, e tutti gli altri strumenti musicali propri del Medioevo. Facciamo una breve presentazione di quella che è la cornamusa, perché sappiamo che è uno strumento a fiato, anzi uno strumento a prefiato, diciamo così, perché la cornamusa, come altri strumenti musicali, va gonfiata prima, sì, prima dell'uso, per tenere questa otre, diciamo, piena di aria per appunto contribuire a questo suono, come dire, lineare che esce dalla cornamusa, quindi un fiato, diciamo, prepagato per far sentire dopo quello che è il suono, sì, lungo appunto dello strumento. Dunque, la definizione, diciamo, precisa, se si vuole, sì, essere fiscali, è aerofoni a sacca. Ecco. Che è una macro categoria che include tutti gli strumenti, come possono essere la zampogna o le pive o cornamuse, delle quali esistono centinaia di tipologie diverse, sparse un po' in tutta Europa, delle fogge e delle forme più svariate. In questo specifico caso io ho qui una cornamusa medievale, che ha un solo bordone, vale a dire una sola nota di accompagnamento, in questo caso si tratta di un La, e una canna del canto, che in questo caso suona in La minore. La sacca contribuisce, diciamo, a creare un terzo polmone, creando così un flusso d'aria costante che permette di mantenere una pressione adatta al funzionamento delle ance. Le ance sono, diciamo, costituite da due sottili membrane di canna, e canna di fiume semplicissima, che una volta attraversate dall'aria producono il suono attraverso la vibrazione. Mentre per il bordone si tratta di un'ancia battente, vuol dire che ha una sola lamella mobile, ma il funzionamento è sostanzialmente lo stesso. Si produce una vibrazione in queste membrane di legno e da lì poi si crea il suono della cornamusa, quello tipico, certo, che sentite tutti. Un po' come suonare il soffione, quando si spacca dal fiore c'è la canula che arriva a produrre un suono stessa, molto simile, esattamente, no? Sì. A questo. E quindi, diciamo, per chi ha ancora quel pastorello, diciamo, che mette nel presepio ogni anno, il pastorello invece suona la zampogna, esatto, in questo caso. Quindi un pluriance, in questo caso, con due note di sottofondo, esattamente, quindi il La, come dicevi, e poi un altro. Per quanto riguarda le zampogne, le tonalità sono molto variabili. Io avevo una zampogna molisana ed era in Sol, però esistono anche in Si bemolle, in Fa diesis, in qualunque altra tonalità. Adesso entriamo troppo nel tecnico, sul tecnico. Benissimo, allora ancora spazio musicale. Questa volta cosa ci ascoltiamo? Sì, sì, sì, ci tocca ascoltare, ci tocca. No, ascoltiamo un pezzo che farà parte del vostro prossimo lavoro, nella versione acustica dei Vagus Animis, in questo caso Santa Maria Streia do Dia, quindi Santa Maria Stella del Giorno, in questo caso i Vagus Animis, qui a Blu Radio Veneto. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Santa Maria Streia d'Odia, questa Ostrela, non so adesso l'esatta pronuncia dello spagnolo antico a quello moderno, fatto sta che anche questa è una canzone che i Vagus Animis hanno riproposto da quello che è questo libro di testimonianze musicali popolari citato anche prima, vero Melissa? Esattamente, tra l'altro doveroso dire che all'interno del codice, dei vari codici, sono contenute numerosissime illustrazioni degli strumenti e sono preziosissime per, anche proprio ai fini ricostruttivi per i liutai, per riuscire ad avere un'idea dello strumentario dell'epoca. Sono anche molto ben disegnate, molto neti e anche molto carine da vedere per chi volesse cercarle su internet. Certo, quindi brevemente anche la Ghironda, questa sera non c'è perché sta male. Quindi la state sistemando, diciamo, curando, che è in manutenzione, no? Perché è uno strumento molto delicato, è un cordofono e richiede una certa attenzione. È un cordofono molto particolare, nel senso che funziona, c'ha dei dischi, delle sfregature, tutto un insieme. Spiegaci meglio tu. Dunque, come funziona la ghironda. La ghironda funziona per sfregamento, esattamente come il violino. L'unica differenza è che il violino ha un archetto a sfregare le corde, mentre la ghironda ha un disco e si chiama, il meccanismo è quello dell'arco perpetuo sostanzialmente. E questo disco, girando, entra in contatto con le corde e producendo a sua volta svariate note di bordone, una nota che crea un suono ritmico che si chiama trompetta, e le note di canto che creano la melodia vera e propria. Uno strumento molto particolare, usato ancora nella musica tradizionale in Piemonte e in alcune zone della Francia, ma per il resto d'Europa diciamo che si è perso già da diversi secoli. Certo, diciamo che è molto francese come strumento, sì, veniva usato a corte anche dai menestrelli, diciamo, di corte francese. Sì, caso. Diciamo che in Francia ha avuto un grande successo e addirittura è stato poi esportato in Canada, dove si è continuato a suonarlo nelle zone francofone. Diciamo che la Francia è stato proprio il territorio di massima espansione e massimo utilizzo. Addirittura ne hanno una tipologia particolare che è la ghironda in re, che serve esclusivamente per suonare musica tradizionale del centro Francia sostanzialmente. Grazie anche a Alain Stivet queste cose sono successe. Sì, sicuramente ci sono stati questi, diciamo, pionieri. Pionieri, che esattamente. Hanno... Al di là dell'arpa celtica, anche lui ha portato avanti questo discorso della tradizione degli strumenti, della ricostruzione. Diciamo che si è, grazie soprattutto a personaggi come lui o tanti altri, si è data visibilità a degli strumenti che erano passati completamente in secondo piano e venivano dimenticati. Comunque c'è anche da dire che sono strumenti di molto difficile manutenzione, molto difficile reperimento, perché certo, chiaramente missionati, e molto difficili anche da suonare, perché comunque essendo completamente costruiti in materiali naturali come anche la cornamusa, sono estremamente suscettibili di cambi di temperatura, umidità, pressione, qualunque altro fattore atmosferico casuale. Sono delicatissimi praticamente. Sì, diciamo che il suonare può essere influenzato da una miriade di fattori. Poi la bravura del suonatore sta sostanzialmente nell'andare avanti nonostante tutto. Certo, certo. Beh, anche adesso però non cambia niente, come una volta non cambia assolutamente niente. Ritornando un momento al pezzo che avete fatto prima, qualche secondo fa, non so se Flavio è d'accordo, secondo me è un pezzo a carattere religioso sicuramente, ma musicalmente era spostato verso l'Oriente, secondo me, Medio Oriente, musicalmente. Sì, sicuramente, perché... Cosa dici Laura? Laura è d'accordo anche lei? Nelle Cantigas hanno lavorato, come dicevo prima, probabilmente scrittori di diverse etnie, come noto nella penisola iberica l'influenza, sì, esattamente, araba e notevole, nordafricana, moriscos, no? esatto. Quindi era di un certo peso, oltre anche che l'influenza poi degli ebrei di Spagna, che anche quelli, si dice abbiano lavorato anche loro, i sefarditi, esattamente. E quindi quello che ci ha attratti, diciamo, delle Cantigas in questo periodo particolare è stato appunto il fatto che fossero così multietniche, così particolari e varie al loro interno. Di solito i codici mantengono una certa unità compositiva, mentre per le Cantigas c'è veramente una varietà infinita, data anche dal numero enorme di brani che ci sono contenuti. Allora era l'unico modo per essere uniti in quel caso lì, no? Perché esatto. Si sa che quando ci sono molte etnie insieme non sempre si va d'accordo, e forse la musica serve sempre per riconciliare tutti. È almeno un po' un collante sociale. Assolutamente sì, sono d'accordo, proprio chiamato giusto, collante sociale, ricordatelo. Carissimi ascoltatori, ancora merita di ricordare che siamo con i Vagus Animis, protagonisti di questa serata dove c'è la musica medievale a farla da protagonista. Ricordiamo i Vagus Animis, vengono per due terzi da Brescia, l'amatissima Francia Corta, perché si intende di vino, e poi ancora da Assisi, ricordata anche per un santo davvero speciale, San Francesco. E allora, Vagus Animis, un altro pezzo che ci andiamo ad ascoltare da CD, questa volta ascoltiamo Il ballo dell'orso. Thank you. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E io e Maurizio stiamo apprendendo sempre nuove sonorità musicali, siamo proprio a un corso, la musica medievale si intitola questo corso, e i maestri divulgatori di questa musica sono loro, i Vagus Animis, in questa serata a Blu Radio Veneto a parlarci del loro Vagus in Fabula e del loro nuovo progetto che sarà pronto tra quanto? Speriamo, Melissa? Entro fine anno, diciamo, perché i lavori sono fervono, però ci vuole il suo tempo, insomma, come per ogni cosa fatta bene. Certo, anche perché naturalmente siete impegnati anche in moltissime feste, per cui vi portano anche fuori un attimino da quello che è l'obiettivo. Sì, diciamo di fare, quindi precedenza diciamo al pubblico, alle feste, allo stare insieme, e poi naturalmente vi troverete a risistemare il tutto, e quindi poi a sicuramente. Quanto vi manca ancora? Ma quella fase di registrazione è conclusa, diciamo che siamo nella parte del messaggio, e quindi è pronto praticamente? Dipende dal fonico. Quindi può essere pronto domani come l'anno prossimo. Ah, dipende dal fonico. Giano ha detto dipende dal fonico. Dipende dal fonico. Allora questo è un ballo dell'orso, forse dedicato agli orsi che si trovano in centro Italia. È un brano tradizionale francese. Ecco, quindi non c'entra niente l'Italia in questo caso. Di provenienza dell'area franco-provenzale, come tanti altri brani che abbiamo suonato negli anni passati. E anche in questo caso, più che su un brano medievale, ci siamo orientati su un anonimo sostanzialmente senza tempo. Perché per creare un mélange e creare un po' una strada all'indietro, quindi non solamente brani prettamente medievali, ma anche brani tradizionali, per dare una serie di pietre miliari di quello che potrebbe essere il nostro percorso verso il Medioevo. A me mi è venuto in mente certi brani che venivano suonati alle fiere, gli orsi che erano dentro queste gabbie che venivano mostrate. Esatto. Può darsi che siano quelle. È legato a questo, probabilmente quello il discorso. Al fatto che si facesse lottare l'orso con i cani. Esattamente. Alle fiere, veniva, lo spettacolo veniva offerto chiaramente dietro un pagamento. Certo, chiaramente. Venivano chiamati orsanti in quel caso lì, mi sembra, dalle parti, sempre tra Piemonte, diciamo, la costiera ligure e la parte sembra francese. Anche a me, ecco, benissimo. allora abbiamo ascoltato il ballo dell'orso, abbiamo tempo per ascoltare ancora due pezzi, questa volta rigorosamente live, dove i protagonisti sono loro, i Vagus Animis. Prima però una breve presentazione di quelli che sono gli altri strumenti musicali che abbiamo visto muoversi in questa serata, e quindi la parola a Laura e a Giano per la descrizione dei loro strumenti. Prima si vedevano le castagnette, si chiamano così, quindi sono le nacchere, tanto per darla in termini, ecco, impropriamente. Ci spieghi la differenza tra castagnette e nacchere, Laura? Semplicemente le nacchere o castagnuelas sono spagnole, le castagnette sono italiane, soprattutto nella zona sono tradizionali soprattutto nella zona della Campania, ma anche scendendo più a sud. Sì, molto difficile da suonare, complesse se non altro da suonare. Più che altro pericolose. Sì. Sì, perché se non si sa bene quello che si fa si rischiano brutte tendiniti. Sì. Oltre che andare fuori tempo si rischiano anche le brutte tendini. Benissimo, e poi ancora c'hai un battente particolare? Questo qua è un tamburello medievale ripreso dall'iconografia dello studiolo di Urbino. E niente, in pelle naturale ovviamente, perché sì. E poi l'altro è un tamburo muto che io suono alla maniera araba, come si suona il bendir, che è uno degli strumenti raffigurati appunto nelle iconografie delle cantiga di Santa Maria. E basta. Ah no, ecco, questi i tamburi a cornice, che sono in generale tamburelli, tamorre, tutti questi tamburi che si suonano a mano, che hanno propriamente una cornice, sono gli strumenti più antichi del mondo. Cioè li vediamo da subito nelle raffigurazioni murarie fin da prima dell'epoca romana. E quindi ecco. Benissimo, adesso Giano, tu hai un tamburo davvero particolare, quello che si chiama Davul. Sì, è un Davul, che è un Davul, Davul, ecco, sì. Sì. È un tamburo di origine turca che è stato importato più o meno durante le crociate. Sì, se ne vedeva qualcuno. Esatto, sì, non era diffusissimo. La particolarità come tamburo è che ha due pelli battenti, per cui invece di avere entrambi i percussori sulla stessa pelle, che fanno fondamentalmente lo stesso timbro, ha due pelli di due spessori diversi con due battenti differenti, sì, che fanno uno un timbro basso e uno un timbro più alto. E quindi c'è un'implosione più che un battito che porta l'aria verso l'esterno con le due pelli che si contrastano. Sì, è un sistema differente rispetto a quello del singolo battente, sì sì. Assolutamente particolare anche lo strumento che suona Giano. Allora, mano agli strumenti, Vagus Animis, fuori di testa vuol dire, no? Lo ripetiamo all'italiana, o fuori di senno, come si dice in maniera più acculturata. Allora, questa volta un omaggio direttamente di Laura a noi di Blu Radio Veneto e a tutti gli ascoltatori, perché è il momento di ascoltare questo Salterello Umbro. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora, abbiamo ascoltato anche questo Salterello Umbro. Anche prima avevamo dato spazio a un altro salterello, quindi abbiamo capito quelle che sono le caratteristiche di questo, di questa musica e di questo ballo annesso. E prima, durante le prove, sentivo Melissa, questa è un'improvvisata, che costruiva un brano che abitualmente si ascoltava anche nei caroselli di qualche tempo fa. Mi riferisco ai caroselli, quelli della pubblicità, non certo i caroselli medievali. E tu facevi una melodia della serie da da da da da da da da. Ce la fai ad ascoltare un attimino? Perché è assolutamente divertente, e poi mi fai un po' mente locale anche su quella che è la provenienza di questo pezzo, così un'estemporanea. Ecco qua, si carica la cornamusa. We'll be right back. stupendo. Allora possiamo dire che era proprio viva viva l'olio d'oliva questa, sì, no? Per lo meno nella, ecco, non so se avesse qualche altro titolo, Melissa, tu che ti fai scoprire queste nuove melodie. Questa sì, canzone l'ho imparata da un vecchio signore di Como quando ero bambina. E per me era piva piva l'olio d'oliva. Ah, piva piva e non viva viva, per cui piva è sempre abbinato allo strumento, esatto, stile cornamusa. Quindi abbiamo ascoltato anche questo divertentissimo ballo. Non entrerà a far parte di qualche vostro altro progetto? Chissà, se faremo un CD natalizio sicuramente ne farà parte, oppure una bonus track, ecco. Va bene, bene. Allora, che dire, noi ringraziamo i Vagus Animis per essere venuti sin qui a proporci la loro bella musica, questa musica medievale che ci ha fatto un po' riscoprire quelli che sono i ritmi che probabilmente da tanto che non ascoltavamo, perché appunto è sempre la musica, la famosa musica di passaggio, dove si resta in piazza, si ascolta la musica, si viene presa da mille altre cose, per cui non c'è mai il tempo di approfondire queste melodie, che comunque sono delle ottime melodie ben costruite, e anzi oserei dire sono state le basi di quella che adesso è la musica che ascoltiamo, e quindi diciamo in questo caso anche le basi della musica folk, diciamo. Sei d'accordo, Maurizio? Sì, sono perfettamente d'accordo. Un'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, e loro hanno detto, ma lo possiamo ribadire, che gli strumenti sono pienamente compatibili, non c'è la plastica. Ecco, esattamente. Esattamente, bisogna sottolineare questo. Vorrei permettermi di fare pubblicità al liutaio, si può? Sì, sì, dai. Perché fa le cose per bene. La mia cornamusa è stata costruita a Padova. Bene. Da Danilo Turchetti, il cui laboratorio si chiama Musica Inspirata e si occupa di ricostruzione di cornamuse medievali, un po' di tutti. E vedi che noi siamo di Padova, Maurizio, e non sappiamo certe cose. E Selvazzano dentro. Dentro, qui vicino praticamente. A 3 chilometri. Esattamente. Benissimo, quindi salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Selvazzano dentro che non ci hanno mai detto che dalle loro parti c'è questo famoso liutaio. E tra altre cose, la Melissa, tanto per strappare ancora qualche secondo, ci dicevi che qui nel Veneto avevi notato una certa presenza di musica medievale. Sì, devo dire che c'è una buona concentrazione di gruppi di ricostruzione, e poi c'è chi sta ricostruendo la baga veneta, che sarebbe la vostra cornamusa tradizionale, a partire da degli affreschi, mi sembra. C'è un gruppo che credo sia di Vicenza, ma non vorrei sbagliarmi, si chiamano le Baghe della Zosagna, e si occupano proprio di baga veneta, che è la cornamusa del Veneto. Cerchiamo di documentarci anche su questo, vedremo di avere ospiti quelli che appena citati non conosciamo, però dobbiamo farsi una cultura musicale che non va solo verso la musica rock e con le mille sfumature, ma assolutamente con la musica, anche in questo caso ottima musica medievale. Quindi Vagus Animis, grazie mille del vostro tempo, della vostra disponibilità, della vostra presenza negli studi di Blu Radio Veneto, quindi vi auguro un buon rientro. Adesso vi dividete subito, 1-2 a Brescia e no, perché suoneremo questo weekend in Francia, nella zona di in Borgogna. Non in Francia corta, la Francia più allargata, esatto. La Francia quella più grossa, sì. Sì, sì, sì. Quindi partite per la Francia. Esattamente. Quindi si parte per la Francia, prima tappa a Brescia per delle ulteriori prove. Intanto auguriamo anche una buona guarigione al braccio e alla spalla di Laura, che questa sera era un po' fasciata. Si poteva ascoltare qualche brano dal vivo di più, ma abbiamo preferito non forzare troppo su quello che era, diciamo, il problema di questa sera. Quindi allora salutiamo Melissa, salutiamo Laura, salutiamo Giano, e grazie mille per essere stati qua. Adesso noi teniamo il microfono aperto solo per voi, io e Maurizio salutiamo perché so che ci volete regalare un ultimo pezzo. Breve cappello su questo pezzo, Melissa. Dunque, cosa suoniamo? Suoniamo Petit Rien, che è un brano del XV secolo usatissimo per la danza. Benissimo, allora grazie ancora Vagus Animis, lo spazio a questa musica, questa volta andiamo 200 anni più in là, il 15° secolo, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. È proprio tutto, buon proseguimento delle trasmissioni di Blu Radio Veneto, vi lasciamo con l'ultimo pezzo dei Vagus Animis, grazie ancora ragazzi.